أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست وصنف العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما ركزت أعلامي وصنف العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم Buonasera, ciao a tutte, a tutti e a tutto e bentornate e bentornati su Radio Lotto tutto l'anno. Questa sera in diretta ci sono io, Marta, e come avrete probabilmente così cominciato a immaginare dalla musica, con me ci sono anche Vale e Benny, e torniamo a parlare di internazionalismo. Ciao ragazze! Ciao, buonasera! Ciao! Ciao a tutto! Allora, se siete d'accordo facciamo una velocissima carrellata delle, come dire, delle informazioni generali. Anzi, magari prima introduciamo veloci la puntata, facciamo una carrellata delle comunicazioni di servizio e poi entriamo nel vivo. Benissimo. Allora, come dicevamo, questa sera un'altra puntata speciale sull'internazionalismo. Parliamo di Palestina. Parliamo di Palestina e parlando di Palestina parliamo della lotta che le donne portano avanti in Palestina, la duplice lotta per la loro autodeterminazione e per l'autodeterminazione del loro popolo. E infatti abbiamo iniziato con una canzone che unisce un po' lo spirito di tutte le palestinesi e di tutti i palestinesi nella ricerca della libertà. Bene, grazie Vale. Allora, velocissimi contatti e poi entriamo nel vivo della puntata. Allora, come al solito vi ricordiamo che se volete collaborare, se volete condividere con noi la vostra quarantena, le vostre resilienze, le vostre idee, potete scriverci a nonunadimenomilano@gmail.com, potete cercarci sui social dove ci trovate come Nonunadimenomilano. Questo più o meno per quanto ci riguarda direttamente. A inizio puntata ci teniamo però sempre anche a dare alcuni contatti utili. Il primo contatto utile è quello dei centri antiviolenza, il contatto nazionale 1522 e il contatto diretto su Milano della Casa delle Donne Maltrattate che è 02 55 01 55 19. Ci teniamo a ricordare questi numeri sempre perché sappiamo benissimo che il Covid, la pandemia non ha fermato la violenza, anzi, e i centri antiviolenza continuano quindi nel loro lavoro quotidiano. E un altro contatto che diamo sempre volentieri tutte le sere, tutte le volte che siamo in diretta. Gli altri contatti sono quelli di obiezione e respinta perché proprio in questo momento di grave sovraccarico del sistema sanitario nazionale il diritto all'aborto è ancora più messo in discussione e quindi le compagne di obiezione e respinta hanno attivato un canale Telegram che è SOS aborto underscore COVID-19 e un numero di telefono attivo 24 ore su 24 per dare informazioni e accompagnare chi ne avesse bisogno. Il numero è 331 96 34 889. Ultimissima comunicazione di servizio per la serata e poi torniamo a bomba sul tema. È quella che da questa settimana, non una di meno, ha attivato, non una di meno Milano, ha attivato come dire, un nuovo servizio, una nuova canale di ascolto. E vi facciamo sentire velocissimo l'audio che lo racconta, dove trovate tutte le informazioni. Ti stai rompendo? Rompi l'isolamento con noi, 324-0909-917. Tempo di quarantena, di Covid, di lockdown. Restiamo a casa. Sembra sia così bello, poi se esci ti ammali, prendi le multe, devi camminare distanziato e tenere la mascherina. Per chi come noi dopo un mese di casa soffre un po' di claustrofobia, è riuscita a litigare anche con il cane e il gatto, ha ascoltato tutta la musica, ha letto tutti i libri, cucinato tutte le torte, giocato con i bambini a lungo, è arrivato il momento di dichiarare che non ne può più. Per chi poi vede scendere precipitosamente i risparmi e nessun lavoro profilarsi all'orizzonte, ma anche per chi è incatenata al telelavoro o peggio, può uscire di casa solo per svolgere un lavoro essenziale, la vita è diventata veramente faticosa. Senza contare chi è chiusa in un monolocale o in posti ben peggiori, chi una casa non ce l'ha affatto, chi viene sfrattata proprio ora, chi si ammala ed è sola, senza nemmeno la certezza di sapere cosa si è presa, chi si ammala e non è sola, ma contagia anche le persone più vicine. Al di là di quello che ci viene ripetuto tutti i giorni, stare a casa non è sempre un piacere, ma soprattutto non lo è per nessuna dopo più di un mese di reclusione. La romanticizzazione della quarantena è un privilegio di classe. Perché non c'è nulla di piacevole a stare segregate nei buchi dove troppo spesso viviamo pagando uno sproposito di affitto. Perché ci sono case e case e stare sempre insieme a parenti vari non è il massimo. La quarantena crea stress, nervosismi, tensioni e noi non vogliamo fare finta che questo lato oscuro non esista. È semplicemente umano. Se non sei così sicura di essere un eroe o un angelo, ma stai solo andando a lavorare, se non sei neanche tanto convinta che gli italiani siano i migliori, di chi? Che ce la faranno, ma quando? Facci una telefonata o mandaci il tuo numero di cellulare. Ti possiamo rispondere, oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo, portoghese. Non è che ti risolviamo chissà che, ma almeno ti togli il peso dallo stomaco di tutta sta bellezza che non riesci più a vedere e parli delle tue paure e delle tue preoccupazioni a chi le condivide. Potrebbe anche succedere che qualcuno di noi abbia un'informazione che tu non hai, o viceversa, che ci inventiamo qualcosa al telefono, che per mezz'ora non ci pensiamo, perfino che facciamo due risate o una battuta, che ci scambiamo un link o una vignetta. Non siamo un servizio specialistico, non ti parliamo come psicologhe, operatrici di centri antiviolenza, mediche o infermiere. Vogliamo semplicemente evitare di perdere il senso di comunità e di stare insieme che riteniamo indispensabile per le nostre vite. Seppur isolate fisicamente, proviamo a non perderci, a non lasciare indietro nessuna, neppure noi stesse. Metteremo in comune le nostre esperienze di creatività e lotta, di studio e di vita, di viaggi dentro e fuori dal nostro mondo interiore, che non vogliamo diventi oscuro e privato. Con ogni telefonata ci impegneremo insieme a tenere uno spazio sicuro per le nostre voci e i nostri pensieri, aiutandoci con l'ironia che spesso arriva dove tutto il resto fallisce. Vale la pena di fare la cosa più semplice che ci sia, sentire fuori di retorica ad altre come va. martedì dalle 17 alle 19, 324-0909-917. Puoi anche scriverci a raccontiamocela@chiocciolaautistiche.org. Questo indirizzo mail ci permette di scriverci oltre che sentirci. La voce ha un suo calore, lo sappiamo, ma spesso i pensieri hanno bisogno dello spazio bianco. Non esitiamo quindi a inviarci pensieri, aneddoti, riflessioni, poesie e qualsiasi forma espressiva ci permetta di capire quello che ci sta accadendo. Si sa mai che battuta richiamando battuta, scambi improbabili e spontanei possano prendere vita. Eccoci, siamo tornate. Abbiamo fatto un intro velocissima perché stasera siamo cariche, cariche, cariche, noi e di contenuti. Eccoci qua, allora per cominciare, diciamo così, a parlare della nostra puntata della Palestina, stiamo per mettere una canzone molto popolare che rende protagoniste le donne, ed è una canzone che parla di una ragazza palestinese, la canzone si chiama Jafra. E sostanzialmente cosa succede a questa ragazza che dopo l'occupazione e la nascita dello Stato di Israele deve scappare e va a vivere in un campo profughi. Di lei ha scritto un poeta che si è innamorato di lei e dicono che sia stata uccisa in un raid israeliano a Beirut. E quindi questa è una canzone molto popolare che la Valle ci raccontava, che viene spesso messa nei matrimoni o durante le celebrazioni, e quindi ce l'ascoltiamo anche noi. Che dite? Andiamo. Vai, vai con Jafra. Via. اضربت كل الحافل على الأربع عنابة جفراه يا الرابع حدا بكيت الشباب واضربت كل الحافل على الأربع عنابة palestinesi non è mai parlare di una sola lotta, da dal 93 in poi la Palestina è un territorio frammentato, quindi anche il percorso di autodeterminazione delle donne è diverso a seconda che sia nella striscia di Gaza, in Cisgiordania o nei territori occupati. Inizieremo con un contributo molto importante, quello di Mary Calvelli, che rappresenta il centro VIC a Gaza. Prima di dare la parola a lei, volevo un po' aprire un non tutti sanno che. Non tutti sanno che la lotta delle donne palestinesi inizia ben prima della nascita dello Stato israeliano, anzi la prima mobilitazione di solo donne è del 1893 nel villaggio di Afula, e sono state le donne a bloccare dei primi tentativi di insediamenti sionisti. Ci sarebbe tanto da dire, però vorrei ricordare alcuni nomi importanti nella storia. Le donne sono state protagoniste delle rivolte tra il 36 e il 39. Nel 47 è nata la prima organizzazione armata femminile palestinese, da Zahrat al-Ukhawan. Protagonista è Mohiba Khurshid, che è stata la donna che ha guidato la resistenza ad Haifa. Come non ricordare Leila Khaled e Shadia Abu Ghazaleh, che sono entrambe molto importanti nella storia palestinese. Leila Khaled è un po' più famosa per quel tentativo di dirottamento che c'è stato ad opera sua, famoso per non aver creato né morti né feriti, ma per attirare l'attenzione sulla causa palestinese, mentre Shadi era molto importante nel partito del Fronte della Liberazione per la Palestina, perché è la donna che ha organizzato le donne, spinto per la scolarizzazione delle donne. Ho voluto citare questi nomi perché spesso quando si parla di Palestina non si pensa che le donne siano state protagoniste già da molto prima del 48, ed è una storia che continua. Non vorrei dilungarmi, perché poi grazie a Mary abbiamo un perfetto quadro della situazione che ci accompagna piano piano fino ai giorni nostri. Ci tenevo però a dire queste due parole su queste donne, perché sono nomi da ricordare. Grazie Vale. Mi sembra un non tutti sanno che è piuttosto, come dire, importante. Direi proprio di sì. Vogliamo allora ascoltare le parole di Mary? E poi torniamo in diretta per continuare questi racconti. Diamo la parola a Mary, che è sicuramente interessante. Guardando alle donne, alla loro lotta verso l'autodeterminazione. Le donne sono tante, di tutti i tipi, e si danno veramente tanto da fare in tutto il mondo, non soltanto in Palestina. La prima cosa che si deve tenere presente quando si parla e si va in Medio Oriente, e quindi anche in Palestina, è che hai a che fare con una società patriarcale all'ennesima potenza. Essendo una regione piena di conflitti, con forti contesti di guerra, le donne hanno avuto molto da fare per farsi sentire, e soprattutto si sono sempre fatte carico di tutte le questioni politiche, sociali ed economiche. Il fardello ce l'hanno sempre avuto sulle spalle da molto tempo, se si pensa che i primi movimenti delle donne arabe compaiono intorno al 1920. Storicamente poi sono cambiate le situazioni. In Palestina ci sono scritti e documenti sulle organizzazioni femminili fin dalla formazione dell'OLP negli anni 60, sia dentro che fuori dalle organizzazioni. Quando sono stata in Palestina per la prima volta nel 1987, durante la prima intifada, i comitati delle donne erano una parte molto attiva. Nella storia del popolo palestinese le figure femminili particolarmente forti sono spiccate in tante azioni di lotta, anche armata. Ma nonostante i movimenti di liberazione, il ruolo decisionale e dirigenziale della liberazione stessa non veniva dato in mano alle donne. Dopo la prima intifada è iniziata una repressione più dura, a causa della continua occupazione israeliana. Arresti, uccisioni, ferimenti. E questo ha creato uno strato sociale, familiare e femminile particolare, dove le donne si sono dovute far carico, nelle carceri, nella famiglia, nelle strade, di tutti i problemi. Con gli accordi di Oslo, definiti nel momento Con gli accordi di Oslo, definiti un momento di pace tra Israele e Palestina, le donne si sentivano più libere di muoversi, godevano un momento di libertà senza frontiere, muri, checkpoint. Purtroppo però si è visto chiaramente che l'identità palestinese veniva meno e veniva meno anche la forza organizzativa delle donne. Erano gli anni 90, prima dello scoppio della seconda intifada, quella che noi europei abbiamo definito l'islamizzazione della società. Un ritorno indietro, le donne che ricominciavano ad indossare il velo. Ricordo che nel 98-99, quando era ormai palese che gli accordi di Oslo non venivano rispettati e soprattutto che erano stati una fregatura per il popolo palestinese con l'avvio di una forte colonizzazione, veniva meno il riconoscimento della loro identità. Le donne hanno reagito rimettendo il velo. È vero che in questo periodo le azioni di protesta contro Israele erano portate avanti dalla parte più islamica e religiosa della società, da Hamas. Ma erano tanti i comitati delle donne più laiche che negli anni precedenti si erano formate e avevano dato vita ad associazioni che agivano nel sociale, mettendo in discussione i ruoli familiari ed economici. Negli anni della prima intifada, quando andavamo a Gaza o in Cisgiordania, negli asili e nelle associazioni le donne vestivano senza velo, con la minigonna. Normalmente erano vestiti secondo una nostra visione. Ad un certo punto però si sono ricoperte, reindossando il velo, sia in Cisgiordania che a Gaza, sia nei campi profughi come nelle città come Betlemme e Ramallah. Erano una reazione per ribadire un'identità culturale soffocata. Poi è arrivata la seconda intifada, una rivolta scontata ma anomala, una diatriba molto forte all'interno dell'autorità palestinese, con scontri armati con Israele che purtroppo... hanno portato anche alla divisione della popolazione tra i palestinesi. Con le elezioni del 2006 si è arrivati alla divisione totale tra la Cisgiordania e Gaza, un disastro totale e per le donne un grande abbandono di quest'unità fondamentale di collegamento. La chiusura e la divisione tra la popolazione di Gaza e della Cisgiordania non ha più permesso il movimento e la diffusione di un pensiero unito su tanti fronti, primo fra tutti quello culturale, mentale e sociale. Le donne si sono trovate nella difficoltà di incontrarsi tra le città ed elaborare i progetti comuni, idee e stili di vita comune. L'emergenza continua di Gaza, data dalle varie guerre, invasioni, una dopo l'altra per molti anni, hanno focalizzato l'attenzione sul suo peggioramento e sul peggioramento della situazione generale. Non è stato facile per le donne di Gaza sentirsi escluse. Un allontanamento fisico e mentale, abbandonate anche dalle sorelle e dalle modalità di vita delle donne della Cisgiordania. Inoltre, a livello internazionale, l'attenzione era solo sull'islamizzazione di tutto il territorio di Gaza, accettando anche la possibilità di pensare che le donne di Gaza erano ormai totalmente islamizzate. Ma questa situazione non è stata avvallata. Le donne, come dicevo, si sono date da fare, non hanno permesso totalmente questo isolamento. Le frustrazioni per la continua occupazione sono ricadute anche sulle famiglie, soprattutto patriarcali, dove le donne hanno trovato la capacità di stravolgere e di mettere in discussione, non accettando questa doppia chiusura della società. Per loro il quadro è questo: da una parte l'occupazione con le due frontiere che ti stringono e dall'altra il sistema familiare ristretto, patriarcale della società, che ti chiude ancora di più. La faida tra le famiglie, dove gli uomini spesso fanno da padroni, diventa stretto, si riduce ogni giorno. Oggi le donne denunciano la violenza domestica, che per tanto tempo è rimasta nascosta. Esistono centri pubblici antiviolenza e di denuncia, organizzati da quei comitati delle donne che non hanno mai mollato. Hanno creato una rete di protezione delle donne per le donne. sia verso le minacce di padri e fratelli, con la chiarezza che l'occupazione le vuole stritolate. Hanno creato reti di economia sociale ed autonoma, start-up e piccole attività produttive in tutti i settori. Hanno creato reti di economia sociale ed autonoma, start-up e piccole attività produttive in tutti i settori, per essere presenti su un difficile mercato di sopravvivenza. Le donne, in particolare le più giovani, vogliono fare di più, non si deprimono, richiedono formazione, vogliono imparare qualsiasi cosa, non soltanto essere madri. Vogliono avere gli strumenti utili ad agire e immettere nella società le differenti esperienze. Sono presenti soprattutto dal punto di vista artistico, culturale e sportivo. Non vogliono sentire nessun diktat e lì c'è una forza potente che riesce a superare anche l'occhio ignobile che le giudica e le insulta. Le donne ci sono, si impongono e sono tante. Come internazionali che arriviamo in questi luoghi per solidarietà o cooperazione, troviamo le donne ad accoglierci ed insieme siamo una forza. La ricchezza sta nella vita quotidiana, in quello che le donne vogliono esprimere per procedere verso la propria liberazione, capaci di convincere anche gli uomini più duri, consapevoli che facciamo parte di una sola umanità che vuole rimanere libera e senza confini. Eccoci, ancora in diretta. Allora Vale, ho troncato i tuoi ringraziamenti buttando l'audio. E infatti ci tenevo a ringraziare Mary per la disponibilità, ma già che ci sono ci tengo a ringraziare anche chi ha contribuito e viene dopo, come Mia Sar, che poi presenteremo, Leila, una compagna di Gaza, ma anche le donne del gruppo Donne del Gaza Freestyle, che sicuramente ci hanno aiutate a costruire questa puntata in tempi non biblici. Per cui grazie a tutte, il vostro contributo è prezioso e il lavoro che continuiamo a fare accanto alla resistenza palestinese delle donne è assolutamente prezioso. So che ci stanno ascoltando, quindi grazie. Grazie. Grazie. Insomma, questa puntata ci porta in Palestina. Io purtroppo in Palestina non sono mai andata, mentre tu, Vale, ci sei andata spesso, giusto? Sì, io sono andata in Palestina, ho conosciuto la Palestina della Striscia di Gaza, grazie a un progetto che poi ha dato via anche a quello del Gaza Freestyle, all'indomani della fine di Margine Protettivo. Margine Protettivo è l'ultima grande guerra che c'è stata a Gaza nel 2014, una guerra che ha massacrato la popolazione, le infrastrutture, e da cui ancora la popolazione si sta riprendendo, anche perché sappiamo che poi non finisce mai quello che è l'occupazione israeliana e l'invasione anche militare dei territori con bombardamenti o anche con l'occupazione fisica. E poi ho avuto la fortuna di stare anche un po' in Cisgiordania, stare tra la gente, essere accolta dalle famiglie, per cui sì, ora sono 2 anni che non torno e devo dire che mi manca molto. Vai. Sì, qual è la differenza, diciamo così, oltre a quelle più ovvie, no? Però che tu hai visto, hai vissuto magari tra Gaza e la Cisgiordania, di sensazioni o anche di esperienze che hai vissuto in entrambi i posti, e quali sono le maggiori differenze e che cosa hanno in comune magari? Ma sicuramente sono 2 territori, come dicevo, accennavo anche prima, che si sono diversificati molto a causa della frammentazione che c'è in Palestina. Le ho vissute anche in un modo diverso. Gaza sono andata principalmente per un lavoro con degli obiettivi politici, come sfondare l'assedio, rompere l'assedio e il silenzio. Da tanti anni, prima del 2014, molte persone non sono, e compagni non tornavano a Gaza, un po' per il regime di Hamas e un po' soprattutto per le restrizioni dell'occupazione. In Cisgiordania ci sono stata anche come non solo come compagna e come attivista, ma anche come, solo come Valentina, passatemi questa caratterizzazione. E quindi le impressioni e quello che ho sentito è anche profondamente diverso. Sicuramente Gaza rimane, la striscia di Gaza rimane una società, sia per la chiusura dei confini, che per il governo di Hamas, che ricordiamo ha vinto le elezioni nel 2006, però poi da allora non ci sono state più nuove elezioni, e sia perché è un territorio che si forma a partire proprio da diverse premesse, un territorio soprattutto, un'organizzazione soprattutto tribale, la popolazione non può uscire, quindi ci sono una serie di anche di diversità nel confronto anche con le donne. Sono molto contenta anche del lavoro che ho visto delle compagne, perché la voglia delle donne di misurarsi, di esprimersi, di uscire fuori dal contesto domestico è sicuramente grande. Gaza ci sono delle restrizioni. Mi ricordo un aneddoto quando abbiamo iniziato a costruire le rampe prima della vera e propria nascita del progetto del Gaza Freestyle, che una compagna costruiva le rampe con gli altri, e quando qualcosa non va bene viene subito qualcuno di Hamas a farti notare che una donna non può misurarsi su quell'ambito. Molti passi avanti ci sono stati, la foto con cui abbiamo presentato anche oggi il programma, due ragazze sullo skateboard, che per noi può anche sembrare banale, ma è assolutamente un atto rivoluzionario. A volte gli atti rivoluzionari, soprattutto per quel che riguarda appunto la lotta delle donne, passano veramente da cose che per noi possono sembrare banali, no? Allora, come dicevi tu, una ragazza sullo skateboard è qualcosa di rivoluzionario nel contesto in cui è. Assolutamente. Poi di Gaza mi rimane sicuramente lo stupore dell'inizio, l'attraversare questo tunnel d'acciaio attraverso attraverso il valico di Erez e passare da un territorio considerato israeliano a un territorio che è abbandonato, diciamo, a se stesso, dove la popolazione tutti i giorni resiste, ma resiste anche per un assedio, per l'embargo. Sicuramente il filo comune che trovo è l'ospitalità, che anche questo sembra banale, ma quando si parla di ospitalità in Palestina è proprio vero. Ti senti a casa tua, ti offrono tè ogni minuto, caffè ogni minuto, non si può rifiutare. Ogni volta che vai in una casa c'è sempre un pranzo o una cena, anche se non è l'ora di pranzo o cena. Quindi tra Gaza e Cisgiordania sicuramente questo mi rimane. Cisgiordania ho vissuto anche un contesto familiare e ho scoperto, che un po' si lega anche a quello che diceva Mary, quanto in realtà quello che si può pensare, no? La mentalità patriarcale, un patriarcato compiuto, in realtà derivi dal peso della comunità. In un momento in cui sei occupato, in un momento in cui l'ordine mondiale è comunque vieni considerato nel calderone, no? Dei paesi arabi, e quindi del terrorismo, e quindi una serie di cose, la comunità, la tradizione e il come comportarsi, le norme sociali diventano tutto. E c'erano delle cose molto divertenti per le quali dentro al nucleo familiare le donne sono assolutamente libere di comportarsi come preferiscono, anzi spesso comandano. Mentre al di fuori magari qualcosa non è permesso, ma non perché nella famiglia è considerata sbagliata, ma perché magari il vicino chissà cosa può pensare, che allora se è una famiglia che non conserva le tradizioni e quindi questo va contro la resistenza. È un discorso molto lungo, sicuramente nel passato era diverso, ma ora aggrapparsi alle tradizioni, aggrapparsi a quello che caratterizza il popolo è tutto. Ci sarebbero tantissimi aneddoti sicuramente, anche se vivi in un nucleo familiare, essere una donna internazionale è diverso da essere una donna palestinese in Palestina. Questo io l'ho sentito e ed è una differenza che si creava tra me e le ragazze che ho conosciuto. Sì, c'è un tema identitario molto forte, no, Vale, che tu toccavi, come l'occupazione, come le vessazioni ovviamente portano all'esasperazione del tratto identitario, perché, come dire, è quello a cui ti appigli per sopravvivere e quindi in qualche modo distorcano anche, no, il rapporto tra i generi o quello, sì, all'interno della famiglia, all'interno e all'esterno. Una cosa divertente che ho dimenticato è che i matrimoni a Gaza no, però in Cisgiordania i matrimoni di solito tradizionalmente sono separati, no? Uomini e donne, poi ovviamente c'è un momento comune dalla parte delle donne dove gli sposi si incontrano. In Cisgiordania adesso iniziano anche i matrimoni con tutti gli invitati, maschi e femmine. La cosa divertente è che le donne, nel momento in cui sono da sole, cambiano completamente. Certo. E quindi parlare di sessualità, farsi battute sul sesso, sulla gonna corta, sul fumare, su ballare senza inibizioni. Sono stata a un matrimonio, ho visto delle persone che conoscevo da tempo, che sembravano molto calme, morigerate, eccetera, completamente. E questo mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. E mi fa capire che c'è tutta un'energia che è anche eredità del passato, perché le donne sono sempre state, come ho detto prima, protagoniste nella lotta. Credo che l'occidentalizzazione che vogliamo del mondo stia portando indietro, no, il processo di secolarizzazione, e stiamo creando delle gabbie, per cui farei attenzione a questa cosa. Quasi profezie che si autoadempiono, no? Esatto. Va bene, vogliamo mettere un po' di musica? Sì. E poi torniamo in diretta e continuiamo con i contributi e i racconti. A tra poco. قبل ما تفضل ما كانت عايشة نسرد قصتها بالعكس من جريمة للولادة جثتها خفزت من الحفرة لحفة الأرض طلعت العظم من جبينها وانبلعت بالفرد صدى صوتها صرخ وهي ردت عليك دموعها تصعد من الخد للعينين من ورا غيمة الدخان وجوه العيلة أخوها بلا خجل حط الفرد بجيبة لقى مزب المجراف ودهن عرق عجبينه بهزت راس اكتفى من القبر ومقاييسه جروها على السيارة هي تضرب أخضامها كعاصفة رمال تمحي أفر بعسادة دخلوها على البجاج مش عارفة لوين بس عارفة إنهم طلعوا ثلاثة وراجعين اثنين وصلوا البيت رموها بعنف على التخت صحوها بطريق تحلم نعكس حياتها علينا بركن نفهم عارب الساعة تتحرك من اليمين لليسار بتراجع خطواتها مثل اللي تاهت بمصار نامت جاهزة كم من قرش للتاكسي تذكرة وجواز سفر تحت الوسادة الجواب خلي الأواعي بالخزانة بتلبس حياة جديدة وإذا سألوها لإيش الحقيبة واستأذنت للنوم قامت عن الطاولة أكلت منيح مجبورة تمثل اليوم الأنف وقف نزيفه هيك مبين لهم بس الجرح طري قبل ما يثبتوها حتثبت لهم إمها عتبتها حياتك جنة صدقت لما ندوق الممنوع فيش إشي بتخبى ساعتين قبل عشا السماء انطرت لين من صدمة طيارة تأجر رن التلفون لو أرجع لو ترجعي بالزمن ما تجاوب من سألك صار قصتها كان معايير بحياتها العكس ايديها بالوجه طلب النجدة ايدين اللي حواليها بالوجه هم بيقرأوا الفاتحة ورقة الرزنة من قلبتهم لورا ساعد مسا نقاش يدرها اخوها قمر شلل دم بجري من شفايفها وبنصب الانف صوت لكبة من وجهها انطلقت ايدها لأول مرة بحياتها بترفض اما اعلنت بفرح بكرة بن عمك جاي يطلب اذا بمسك البوم حياتها وبقلب ببسطف صورة فيها اي مخدم موقف مستصحب بيدي يتلسع الماضي ملطخ بدم وعيون الدمع بس وعدكم من الجريمة للولادة وجوهم غاضبة كأنه خبروهم بجريمة اجتكم بنت البداية pezzo, eh? Sì, tanta roba. Benny, l'hai scelto tu, vero? Sì, questo pezzo me l'hanno mandato per raccontarmi appunto questo pezzo parla del diritto d'onore e racconta sostanzialmente la storia di questa ragazza e dice, il testo dice se potessi tornare indietro e racconta l'ultimo giorno di questa ragazza che stava per scappare perché si era innamorata di un altro ragazzo e il fratello e il padre l'hanno scoperto e l'hanno uccisa prima che lei potesse scappare. Ed è un pezzo di questo gruppo palestinese che si chiama Dam, che fanno comunque molta, nei loro testi c'è molta politica, parlano dell'occupazione israeliana, delle droghe, della povertà nel loro paese, dei diritti delle donne e incitano alla protesta contro il governo israeliano. E dopo questo pezzo loro hanno avuto tantissimi problemi proprio perché parla di un argomento spinoso, proprio perché è come quello che può essere in quel contesto il diritto d'onore, perché molti negano che ci sia appunto come usanza, no? Il diritto d'onore non vogliono vedere e appunto per questa ragione hanno avuto tantissimi problemi. Mi viene da dire spinoso, ma più che mai attuale, perché se ricordiamo quello che è successo solo pochi mesi fa anche a Betlemme, a una ragazza che si chiamava purtroppo Heba, che è stata uccisa dalla sua famiglia per qualcosa di simile al delitto d'onore, perché si era esposta col suo fidanzato con foto sui social, una serie di cose. È un argomento molto attualità in Palestina, ma non dimentichiamoci che in Italia la situazione non è migliore, per cui sempre con uno sguardo, cioè guardiamo le cose con uno sguardo di scambio, di confronto e di quello che ci accomuna anche nella nostra lotta. Sì, anche perché la violenza delle donne è totalmente trasversale, a prescindere dalla religione, a prescindere da qualsiasi classe sociale, quindi voglio dire vale anche in questo caso, no? Assolutamente, trasversale e strutturale purtroppo. Esattamente. Mi viene da dire di presentare subito il prossimo contributo. Il prossimo contributo arriva da Miassar. Miassar è una donna di un villaggio vicino a Nablus, è una rappresentante, direttrice dell'Unione delle Donne Palestinesi a Nablus e ci racconta un po' qual è il lavoro che porta avanti attraverso l'Unione delle Donne Palestinesi e in un secondo momento, ma ci interromperemo un attimo, ci parlerà del donne carcere e un accenno a quello che fanno le giovani donne di oggi. Darei la parola a lei se siete d'accordo. Assolutamente. Va bene. Sì, e poi l'audio sarà in inglese, ma poi faremo un piccolo riassunto di quello che Miassar ci dice per chi non comprende l'inglese. Va bene, lo mando subito. Good afternoon. My name is Miassar Atiani from Palestine. I am from a village named Sawiya Now I am fighting for my land, for Palestine, against Zionists in my land because they stole our land, and still fighting. And this, can I say for the Italian people, the Italian comrades, friends, thanks for your support in the Olive Festival. Each year they came and helped me. Even the Zionists forbidden us to plow the land. I am working at General Palestinian Women Union director in Nablus City, and our work is for women in two sides. The first for our land, our home, Palestine, against occupation. Second, we are fighting for social, local laws, affairs, because we need our rights to be equal women and men. And now we are working with the international law, as CEDAW agreement, 13 council, Security Council resolution. And we are working hard to renew the law because it is the oldest law from the Jordanian and Egyptian. And we need our law in Palestine to be equal, to go on in social affairs and economic, to be independent as women in Palestine. Yes, we are fighting, not just now with the Israeli occupation, Zionist occupation, no, with the fighting for women, Palestinian women. It was beginning through the British occupation and continue now with the Israeli occupation. Women are fighting in all actions, weapons, demonstrations, social. You know that hundreds of women had been arrested from Zionist occupation, more than 1,000 women were being arrested and go out from Zionist prisons. And I am interested in my field of working for female prisoners. I will tell you what we are working for female prisoners. But the action of fighting in Palestine, even it is social demonstration against Zionists, but we are working together, men and women, to continue in the same field, in the same range of fighting, because of occupation is not the fighting for just men. The women, Palestinian women, are go on in their struggle against occupation. Each 10 years we have a new generation from ladies, from young women, and as you heard or see in the TV or by media, or although it is control, all the world media controlled by Zionists, but we trust you, and we want to tell all the world, the Italian people, the reality Palestinian story. Now we have at the Israeli with two quotations, Zionist, I named it Zionist occupation. We have. Eccoci. Scusate, abbiamo tagliato gli audio per darci il tempo di tradurre e renderli accessibili. Sì, mi verrebbe da dire le cose che ci ha detto mia Sar, come dicevo prima, di un villaggio che si chiama Dessawiya, vicino a Nablus, lotta per la sua terra, la Palestina, e i sionisti che hanno occupato la Palestina. Dicevo che è direttrice dell'Unione delle Donne Palestinesi a Nablus. L'Unione delle Donne si concentra soprattutto su due aspetti: il primo sull'occupazione e il secondo la lotta appunto per l'uguaglianza e la giustizia di genere. c'è tutto un lavoro che fanno anche sullo studio delle leggi internazionali, le varie risoluzioni delle Nazioni Unite, per cambiare, rinnovare delle leggi, quelle rispetto appunto all'uguaglianza di genere, che ormai sono molto vecchie, che erano state elaborate in Egitto e in Giordania. Lei dice che appunto le donne da sempre lottano già da quando c'era l'occupazione inglese, infatti quando nel 1917, quando c'è stata la convenzione di Balfour, sono state le donne hanno combattuto in prima linea, per cui sicuramente dall'occupazione inglese e quella israeliana dopo. Il ruolo delle donne è importante, combattono tramite azioni, manifestazioni, proteste, azioni armate, ricorda che la lotta delle donne, la lotta per l'autodeterminazione della donna, non può non essere intrecciata a quella dell'autodeterminazione per il proprio popolo. Quindi la lotta delle donne è intrecciata a quella degli uomini. E questo è un punto che lei tiene a sottolineare. Nel prossimo spezzone Mia Sar ci parlerà dell'attività che fanno nelle carceri israeliane, della situazione delle donne nelle carceri israeliane, e poi ci darà un accenno che presenterà anche i prossimi contributi audio, un accenno a quella che è oggi la partecipazione e il coinvolgimento delle più giovani. Io lascerei di nuovo la parola a Mia Sar e poi darei a noi un modo di conversare, sia su quello che abbiamo ascoltato che su altri aneddoti. About female prisoners, now we have 41 ladies in Zionist prisons. Yesterday, the Zionists arrested the mother of Ibrahim Halase, whom killed by Zionists at the checkpoint. We have 15 mothers. We have two from Gaza. It is forbidden for them to hear the voice of their children, the kids, or their husband. We have our comrade Khalida Jarrar, member of parliament. She is still arrested, and she was arrested before for 2 years in administrative detention, and now she is waiting the court until we hope that she will be released. And we have two ladies arrested in administrative detention, and it is British law, and it is very hard for ladies because of COVID-19. We are suffering and we are afraid about prisoners' life because the Israeli didn't give the treatment for prisoners. We have illness at the prison. We have ladies, men needs it to have care and the treatment. And what happened? The Zionists took off all the cleaning material. So the situation is very bad at the prison. And the COVID-19 is spread by the soldiers and while they are arrested the Palestinian, as what happened with the prisoner Sarsour, he released and he had the COVID-19, but we hope that he will be recovered. So we are suffering now from two occupations, the Zionist occupation and COVID-19, which is danger from the Zionist for prisoners. We hope that they will be okay at the prison, and we hope that freedom will be by the soldier whom arrested by resistance in Gaza. I hope that it will be succeed and there will be a treatment to release the prisoners. We are working as Palestinian women for prisoners with compassion in all the world. My work, General Palestinian Women Union, have a statement and sent the statement which signed from different women, Palestinian Women Committee, to Women Democratic Union, whom taking our message, our documentary to the United Nations, to Vato Mansouda at the criminal court, and we hope we will succeed. And we have pressure upon the Zionists how that now we we succeed that the female we are working for female prisoners because we don't know anything about them. So we have a pressure campaign against the Zionists that at least that ladies can speak by phone to their families. And yesterday, some of the female prisoners made the telephone speaker with their families, and it is good. We hope their freedom, but at least we succeed in our campaign. As I tell you, General Palestinian Women Union, we are working hard, and we have to work with the all the world. We have the European World Committee to defend Palestinian prisoners campaign. They work hard, and we sign from all the Arab and European countries for this campaign to free the prisoners inside the prison. You ask me about young girls. Yes, now there are we have young girls whom are working in social affairs, struggle to have their rights, not to be against the killing of girls because of social criminal from men, from their families, and they were working hard and success. This is another scale of our struggle in social and against occupation, because if you are independent at your social, at your economic field, you will have your freedom from occupation. Hope that I can speak more about Palestinian, about what happened in Palestine, but now we are worry about Italian people, Italian friends. Hope that you will be okay and you will destroy this disease. Our hearts with you. And these days we are living on the ceremony of Vittorio Arguino, whom killed in Gaza by criminal from Islamic. We hope I send my love for his family, for you, all of my comrades, and for the family of Rachel Khoury, the American volunteer whom killed by Zionists in Gaza, too, by bulldozer. This what I mean, that even our friends may be killed by Zionists. We are suffering from Zionists, but to say something that never to give up. We will continue our struggle. We will continue our resistance against occupation. Be careful. Take care. Hope Italy will return back as the lovely, the beautiful country which I love, and all my love for you all. Thanks a lot. Eccoci, siamo ancora in diretta. Eccoci tornate. Allora, come dicevamo, Mia Sarcio ha parlato della loro opera, del loro lavoro nelle carceri. La condizione delle donne nelle carceri israeliane non è facile, hanno fatto tutta una campagna anche per agevolare i contatti delle donne con le famiglie, solo l'altro ieri ci sono riuscite, lavorando anche appunto attraverso le convenzioni europee per la liberazione delle detenute, soprattutto in questo periodo di Covid, in cui appunto è molto difficile la gestione delle carceri, ancora di più in Palestina. E ringrazio assolutamente i compagni, gli amici italiani. Dimenticavo solo una cosa, cita anche Khalida Jarrar, una compagna del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che è in detenzione amministrativa da 2 anni. La detenzione amministrativa è qualcosa che viene dalla legislazione inglese ed è una cosa che è stata mantenuta, e puoi essere incarcerato anche apparentemente, e possono non spiegarti la ragione, e viene rinnovata, non sai per quanto. Quindi ci uniamo al suo claim per la liberazione di Khalida, una compagna molto importante. Che dire? Ma non lo so, Vale, vuoi tornare, come dire, a raccontarci un pochino della tua esperienza, anche sulla base così degli ultimi spunti che abbiamo raccolto, no? Mi sembra che soprattutto l'ultimo contributo, beh, naturalmente anche Mary all'inizio, ma quest'ultimo contributo ci, come dire, ci tuffa letteralmente nella lotta delle donne in Palestina, in questo rapporto doppio e strettissimo, come dire, questa doppia lotta di liberazione dal patriarcato e dall'occupazione. Ma sì, poi sai, nella vita di tutti i giorni questa cosa la vedi da piccoli fattori. Sicuramente anche in Cisgiordania le donne cercano di uscire anche dall'ambito casalingo, molte le donne che lavorano, ovviamente con tutti i problemi di, come abbiamo noi, di una donna che cerca di affermarsi anche nella vita lavorativa oltre che in quella casalinga, però c'è da dire che dalla loro parte hanno una comunità familiare molto più grande, la famiglia è una comunità, per cui anche se la famiglia ti appoggia, anche nell'educazione dei figli c'è molta condivisione, si esce un po' dal concetto di famiglia nucleare. A me piaceva molto quando la domenica mattina la famiglia, tutta la famiglia si riuniva, da zii, cugini, nipoti, questi momenti un po' che noi abbiamo perso, ma che sono anche momenti che danno la possibilità alle donne a un certo punto di allentare un po' la tensione, di essere sempre attive, perché comunque ci si aiuta molto anche, c'è molto supporto, diciamo, tra donne. È una cosa che io ho notato, e la sorellanza è una realtà che si tocca con mano. Che dire, a me è piaciuto anche molto quando vivevo questi momenti solo tra donne, che mi riportavano in una dimensione di intimità che forse oggi noi stiamo un po' ricercando, no? Che avevamo perso e che stiamo ricercando nel rapporto con le altre donne. Questa dimensione lì non si è mai persa, ha attraversato vari momenti, da momenti di maggiore oppressione a momenti di minore oppressione della donna, ma è una cosa che ha resistito nel tempo. C'è un'alleanza, c'è sicuramente un'alleanza. Poi è chiaro che ci sono le situazioni nelle famiglie, come succede dappertutto, delle antipatie, delle invidie, delle gelosie, però questa cosa è forte e io l'ho sentita molto. Sì, scusami Vale, dicevo, è quella, no, quella sorellanza potente di cui parlavamo anche con Benny un paio di settimane fa a proposito del Rojava e della rivoluzione della donna in Rojava, e che, come dicevi tu, sta tornando molto potente anche nella nostra esperienza quotidiana. Stavo pronto per chiedere, volevo appunto chiedere una cosa a Vale su questa sorellanza, questa solidarietà che si sente, no? E quando la si vive ti cambia, no? Un po'. Sì, sicuramente ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva. Poi, anche per quanto mi riguarda personalmente, riscoprire la sorellanza e i legami con le donne, il rapporto con le donne, è una cosa che io sto facendo da pochi anni. E sicuramente la mia esperienza in Palestina mi ha dato molto, c'è sostegno quando anche si percepisce che tu possa avere qualcosa che ti rende triste, qualcosa che ti butta giù, qualcosa che ti fa arrabbiare. Da una parte non c'è quel mantenere le distanze e pensare che debba essere una persona, no? Ad aprirsi, da una parte non c'è questa cosa, ma diciamo che c'è un esserci, un calore, una presenza che qui a volte mancano, e che per persone per esempio come me, per cui è difficile aprirsi, è una cosa molto bella, molto nuova e sicuramente preziosa. Grazie Vale, mettiamo un pezzo? Dai, mettiamo un pezzo. Dai, e torniamo tra poco. Vuole l'euro, vuole bitcoin, non saltene, wesh bitcoin. Enten Jose Kiyomo. يتصلي امتى تيجي عندك الارمات ديك بدق على الباب وانا تحت الحاف امي على البلكون جيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنام شنف الفراش وامي على الايفون سيري زبطي عريس قولوا لابن الحلال يستنى لانه العالم عم بستناني بلاقي شريكي بعد ما الاقي حالي حاليا صحتي العزوبيه صباح الظهريه المرخيه انت مجوزك يما صلي امتى تيجي عندنا دواري انا اوكي كله مظبط كله مسوق دواري انا اوكي بلا هالمشكنتة قومي تخوزي ولي ويلي ويل انت وين وانا وين ولا دع ولا دين جيبوا مخدة جيبوا سرير لا بنام لا بفيق انا بصحي مينوس نجدي في حساب بنكي في كم بطريق ولا ليرة ولا بيتكم انت نجوزك يما انت نتركز يما انت نجوزك يما والبنكي تصلي امتى نتيجي عندنا بلا ضغط بلا كبت بلا غصب بلا ضغط بلا كبت بلا غصب حيو قراري حيو حيو حبيبتي حيو حيو حريتي حيو حيو حيو spingeva di brutto. Sì, so che siamo un po' fuori con i tempi, però ci tenevo solo a dire che questo pezzo parla del matrimonio come condizione, no? Come obbligo sociale, come tappa della vita per emanciparsi, sistemarsi, tutta una serie di cose che comunque anche la nostra generazione si è sentita dire, nostra generazione intendo dai 30 anni in su, si è sentita dire dai propri genitori. Le cose stanno cambiando, nel senso che sempre più giovani problematizzano queste tappe programmate della vita, problematizzano anche in funzione dei rapporti tra ragazzi e ragazze che sono sempre più meno distanziati e più liberi anche nell'amicizia. Ci tenevo solo a dire questo perché è una canzone non a caso. Non a caso anche perché introduce un contributo di una compagna che è referente a Gaza, di una compagna giovane referente a Gaza per il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Questa compagna si chiama Rasha e siamo arrivate a lei grazie alle donne del gruppo del Gaza Freestyle. Farei grazie. Parlare Rasha perché sappiamo che siamo tardi in ritardo con i tempi. Va bene, allora mandiamo Rasha e torniamo tra pochissimo. Self-determination means for me liberation, emancipation from any kind of colonialism, which means political, economic, and cultural independence. The right of the people to liberation and the establishment of a state with full sovereignty over all historical lands of Palestine. I have the right to live in an independent and sovereign state with its capital Jerusalem and its flag which none with its four colors red, green, white and black and its none on the map as its name Palestine in all countries of the world. I have the right to live as a young woman without conflicts and war with all the deep psychological effects which could deposited since childhood. It is my right to move and travel freely in my country without obstacles or being subjected to humiliating treatment. Any citizen has the right to travel freely for treatment at any time and to any place without health condition worsening due to delay for days or weeks or maybe months. We also have the right to be open to the facilities such as theaters, cinemas and public libraries, as well as to sports facilities, and this is hindered by the siege and the bad economic situation caused by the years of occupation. We as an educated people free of illiteracy who are interested in education and higher education have the right to enjoy more and better job opportunities in my country full of marine agriculture, tourism and other resources that the occupation rubs off. Eccoci. Rasha ci ha dato un contributo molto importante perché l'autodeterminazione per lei è la liberazione e quindi l'emancipazione da ogni forma di colonialismo, l'indipendenza economica, l'indipendenza culturale che per le donne è ancora più difficile, che è ancora più difficile per gli uomini. Vorrebbe la libertà di vivere in un paese che si chiama con nome Palestina, che risponde a una bandiera con i suoi quattro colori, e da giovane donna vorrebbe il diritto di vivere in un senza, in un contesto senza conflitti, di guerra, dove anche i risvolti psicologici per le giovani generazioni sono pesanti. Ricordiamo che a Gaza ci sono state solo negli ultimi 10 anni più di 8 guerre, le minori e quelle che sono conosciute da tutti. Il diritto alla mobilità, di andare al cinema, al teatro e biblioteche, quindi sicuramente è una voce giovane che è consapevole di quello che vorrebbe ottenere e che sta lottando insieme ad altre compagne per avere tutte queste cose che noi consideriamo un po' date per scontate. Basti solo pensare che ci viene l'angoscia di non poter uscire dalla Lombardia per via di un'emergenza sanitaria. Questa ragazza non è mai uscita dalla striscia di Gaza. Per cui sono cose che dobbiamo ricordare. Ci ridimensiona un po', come dire. Sì, e ci mette davanti, ridimensiona. E ci mette davanti al nostro grande privilegio e a cosa può significare, no? Dover davvero lottare contro un'occupazione, contro che inficia ogni grammo della tua vita. Sì, sì, l'occupazione e poi anche ovviamente il contesto sociale influenzato fortemente dall'occupazione. Rasha ha una voce da Gaza, Quindi il contesto è quello di una prigione a cielo aperto, si è sentita dire questa espressione tante volte. Abbiamo deciso di dare voce anche però a una ragazza che si può definire una donna della diaspora, perché ricordiamo che le donne palestinesi non sono solo quelle che vivono in Palestina, ma sono anche tutte quelle che sono state costrette a lasciare il paese perché le famiglie sono state deportate dopo l'occupazione israeliana, e quindi i campi profughi in Libano, ma anche tutte quelle donne che lasciano il loro paese per cercare la loro affermazione. Diciamo che Leila è una donna della diaspora perché la sua è un'identità trattino, è figlia di un palestinese, di una donna italiana, ed è una ragazza che si è confrontata col contesto in Italia e ha finalmente conosciuto il contesto in Palestina. Per cui il suo punto di vista per noi è importante e vogliamo farlo ascoltare. Grazie anche a Leila. Ciao a tutte, sono Leila e sono una ragazza italo-palestinese nata e cresciuta in Italia, ma con una doppia etnicità. Oggi mi piacerebbe parlare di quella che è la mia esperienza come compagna femminista con il mondo palestinese. Per me oggi e per le mie compagne aver preso parte al progetto del Gaza Freestyle Festival, in particolare al progetto Donne sulla stessa di Gaza, significa sostenere appunto il percorso delle giovani donne oggi a Gaza. Un percorso complesso che va a schiantarsi, insomma, con le molteplici difficoltà che vivono le donne palestinesi, soprattutto sulla striscia di Gaza. Difficoltà che hanno un carattere politico e un carattere sociale. Diciamo che partendo dall'Italia e arrivando in Palestina, gli interrogativi, le domande che ci siamo poste come compagne femministe sono stati diversi. Da un lato la paura di esportare, diciamo, una nostra visione di un femminismo occidentale, anche quasi colonizzante nei confronti delle compagne palestinesi. Ma i nostri percorsi si intrecciano dal momento in cui la nostra lotta per la liberazione, che non è solo liberazione dall'occupazione sistemica israeliana, ma è la liberazione dei nostri corpi e delle nostre menti. Si intrecciano in che modo? Come giovani donne aspiriamo tutte a una vita libera, a una vita che sia nelle nostre mani, che ci dia la possibilità di scegliere per noi stesse. In particolare il tema della scelta è un tema fondamentale, il tema della cura del proprio corpo. Senza ombra di dubbio ci sono delle grosse differenze che ci arricchiscono più che ci dividano. Entrambe, diciamo, le facce possono imparare dai femminismi e dalle lotte di ognuna, e questo è molto interessante. Le nostre compagne Gazawe imparano da noi il fatto di potersi esporre, e ci accompagniamo insieme in questo percorso, perché noi le sosteniamo laddove abbiamo un margine di agibilità maggiore rispetto a loro, che invece hanno a che fare con il sistema Hamas sulla striscia di Gaza. E loro ci sostengono insegnandoci e restituendoci un grande coraggio. Oggi è piuttosto difficile fare questo tipo di lavoro, perché il rischio in cui si incorre è quello appunto di esportare un femminismo occidentale, quasi insegnando alle altre compagne come si debba lottare. Io quello che ho potuto vedere con i miei occhi, anche appunto essendo per metà palestinese, è quanto sia difficile, ed è questa la nostra sfida maggiore, trovare una congiuntura ideale per tutte le nostre lotte.

The kufi is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity. Feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag. Eccoci, tornata in diretta. Eccoci qua. Dopo il contributo di Lella e dopo questo pezzo molto figo di Shadia e Moande del Prezzo. Volevo solo dire una cosa, grazie a Lella perché ha toccato uno dei motivi anche per cui ogni due settimane ci troverete in onda in giro per il mondo, cioè sempre qui in camera nostra, ma in giro per il mondo, perché decolonizzare il femminismo occidentale, liberale, bianco, in cui si pensa o per cui si pensa che abbiamo da insegnare, no? Il velo sì, il velo no, quelle donne sono sottomesse e riconducono un po' le donne del resto del mondo a una condizione come di soggetti incapaci di decidere per sé. Quindi lei l'ha sottolineato un tratto fondamentale, la nostra prospettiva è quella ed è quella dell'intersezionalità delle nostre lotte. Sì, no, quindi sappiamo, grazie. Sì, sappiamo che non è di meno, ripete, no? Di far parte di quella ondata di femminismo cosiddetta del 99%, ed è proprio questo, no? che intendiamo. E probabilmente però per, come dire, agire un femminismo che sia davvero intersezionale, è necessario prima di tutto partire dalla decolonizzazione del sé. Perché, no, se diciamo che nessuna di noi è immune al patriarcato, diciamo anche questo, che la postura colonialista va sradicata da ciascuna di noi, con quella che noi definiamo appunto la postura femminista. Quindi grazie Leila perché ricordarcelo è importante, no? Perché sappiamo anche invece che soprattutto a livello mainstream spesso passa un femminismo che invece non ci appartiene, no? Il femminismo femen, bianco e sovradeterminante, che per noi invece è, come dire, l'esatto opposto della postura da cui vorremmo partire. Bene, è arrivato forse il momento dei saluti, no? Accidenti, sì. Beh, allora, lasciatemi dire, perché Vale lo ha accennato poco fa, abbiamo così prese dalla foga di tutto quello che avevamo da dire, forse non l'abbiamo detto all'inizio, ma ci tengo a ripeterlo, che allora intanto il palinsesto di Radio Lotto tutto l'anno è un po' in evoluzione, nei prossimi giorni ve ne daremo notizie, però una delle notizie è che un venerdì sì e un venerdì no, ogni 15 giorni, saremo in diretta con Vale e con Benny proprio per parlare di questo, di internazionalismo e femminismi. In questo momento in cui non possiamo viaggiare, almeno andiamo a conoscere le lotte delle donne in tutto il mondo, no? Sì. Assolutamente. Benissimo. E niente, in chiusura io ci tengo, Vale l'ha già detto tante volte, ma ci tengo a ribadirlo, a ringraziare tutte le persone che rendono possibili questa puntata in particolare, ma tutte le puntate che costruiamo, perché oltre alla nostra chiacchiera in diretta c'è una preparazione lunga per la raccolta dei contributi, delle testimonianze, quindi grazie a chi ci ha prestato la voce e ha raccontato la sua storia, grazie a chi ci ha aiutato a raccoglierle e basta. Grazie. Va bene. Grazie a voi e grazie anche a tutte le compagne che lavorano quotidianamente per rendere possibile questa radio, anche se ora non sono in onda con noi, ci tengo a ringraziare tutto il gruppo di Radio Lotto tutto l'anno. E di non una di meno Milano. Va bene, allora, e di non una di meno Milano. Ora, come al solito, vi lasciamo con una playlist. Questa playlist è frutto della collaborazione di Pedro, che è un compagno, parte di Ambrosia, che ci ha regalato questa playlist, una playlist un po' punk, un po' tosta, e ora io provo a farla partire in auto DJ, perché voi sapete che l'auto DJ, chi ci segue sa che io litigo spesso e volentieri con l'auto DJ, ma sono abbastanza ottimista che il tutto riesca a partire, e quindi niente, partiamo, la musica sta cominciando, e ciao ragazze, ci sentiamo presto. Ciao ragazze, ciao. Grazie. Ciao. Buona Palestina sera. Libera. Palestina ciao. Libera. Ciao. Eu quero ouvir barulho. Vamos fazer história, ok? Isso. Vamos gravar o porto na história da música portuguesa. Thank you. was raised, I was dragged out the quagmire. I was the beast of your cisgender pain. And I'm not sorry for the state of my body. I'll never be sorry for that. Keeping your tabs on the movements I make, watching the corners of your eyes, dull. A fragile wish to be held accountable, but I'm not the one till gone is the sun. It's all been erased, so we make our own history. 'Cause you're queer and you're visible, and your life now means more to all of these people who would take you and break you up into pieces when you step out of line, when you stop. I was your beast. Ela é minha menina, eu sou o menino dela. Prateada se esconder e só dois. That her deed will never leave. And we love it. Be here.

space that's sweet.